Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto mondo. We have a vaccine that's coming, it's ready, it's going to be announced within weeks and it's going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine. Allora, Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo riconosciuto Trump, abbiamo riconosciuto sì. che ha parlato di vaccini. Questi erano degli estratti dal faccia sì. a faccia. Io mi sono messa la sveglia alle tre, ho acceso ecco. e mancavano ancora due minuti e poi sono arrivati entrambi in questa aula magna dell'università di Nashville in Tennessee. La moderatrice ha subito detto, ha dato le regole, cioè il famoso due minuti con possibilità con la certezza che il microfono dell'altro è spento. Fosse spento. Una regola a cui siamo arrivati perché non era stato possibile gestire, diciamo, come dire, il senso di responsabilità dei due. Esatto, e ha detto: se volete applaudire o fare dei versi qualunque, compreso bu, fatelo adesso perché poi non saranno più ammessi alle poche. Ed è stato così. E la cosa interessante è che una delle prime reazioni a caldo poi di Chris Wallace, che era il moderatore, giornalista di Fox News, moderatore del primo dibattito, è stata: avrei voluto che questo fosse stato il mio dibattito, nel senso che ha mirato senza dire però tu avevi il microfono silenziato, anche perché succedeva solo per i due minuti iniziali di ciascuno dei sei segmenti. Tu sei stata veramente capace di farli rispondere, di fare le domande giuste, quindi direi che la sensazione generale un po' di tutti i giornali è un dibattito vero, cioè i due candidati hanno esposto i loro argomenti e non hanno interrotto l'altro quando parlava. Ecco, quindi diverso rispetto a quello dell'altra volta, questo dibattito vero che tipo di, come dire, di situazione ha prodotto, no? di feeling anche con gli ascoltatori, cosa è passato da questo dibattito? Guarda, ti dicevo, sei segmenti, il primo è stato il Covid, quindi naturalmente quello più, e qui infatti abbiamo sentito Donald Trump che ha ribadito il vaccino ci sarà within weeks, cioè a settimana. Tra poche settimane. La giornalista gli ha poi chiesto ma quante settimane e lui non ha risposto, ha detto però che, ma questo è chiaro, cioè i militari hanno una capacità logistica che se veramente le dosi ci fossero, e lui, Trump l'ha detto, sarebbe in grado di distribuirle molto facilmente in tutto il paese. Il problema, come sappiamo, è che il vaccino non è stato approvato, che non si capisce come e quando se ne potrebbero produrre i milioni e milioni e milioni e milioni di dosi necessarie, quindi questo lo scelto questo brano perché è uno delle tante parti che poi i fact checkers di tutti i network hanno subito preso di mira, dicendo questo non è possibile, questo non è vero, questa parte qui del vaccino tra poche settimane non è vera. Però è curioso perché anche Conte, che certo non può essere annoverato tra i sovranisti trumpisti, per quanto diciamo è un uomo dei 5 stelle, quindi da un certo punto di vista invece sì, però anche lui ha detto a dicembre avremo le prime dosi, non è che cambia un mese e mezzo, ma insomma. Sì, io credo che appunto sia un po'. Sì, in inglese si dice wishful thinking, che però se lo facciamo io e te va bene, se lo fa un capo di Stato di governo. Ma se vuoi sentiamo cosa gli ha risposto invece Joe Biden quando Trump ha detto io ho questo atteggiamento di non nascondermi, come invece fa Joe, perché bisogna vivere con il virus, proprio to live with the virus, che è diverso dal nostro convivere. Ma sentiamo cosa gli ha risposto Joe Biden. He says that we're learning to live with it. People are learning to die with it. Questa è stata una delle frasi più efficaci. Non è vero che dobbiamo imparare a vivere con il virus, noi stiamo morendo per il virus. E naturalmente i dati, lo sappiamo, sono ancora una volta in crescita. Diciamo che un altro commento che ho trovato su molti giornali, in particolare New York Times e Washington Post, è che l'impressione è che questo dibattito, le 46 milioni di persone che hanno già votato, cioè un quarto circa degli aventi diritto, partito o per posta o con gli early ballots, cioè l'early voting che abbiamo visto è successo per esempio in Wisconsin, cioè urne già allestite, beh, tutte queste persone non devono preoccuparsi. Questo dibattito sicuramente non ha cambiato le opinioni di quelli che appunto erano già così certi, che hanno già votato. Il primo quanti erano gli ascolti, lo sappiamo già? Erano superiori a quelli del primo dibattito, e intorno ai 100 milioni questa volta, 100 milioni di persone. CNN, non è poco nemmeno per gli Stati Uniti, credo, no? È tanto, è tantissimo. La CNN ha fatto subito il sondaggio di coloro che hanno seguito il dibattito sulla CNN, ma poi è andato in onda su tutti i network, e c'è stato il 54% delle persone hanno dato per vincente Biden, ma è molto interessante, poi hanno diviso per ciascuno dei segmenti, e sull'ultimo, il tema lì era la leadership, beh, lì erano pari, cioè 49-49, perché un problema di Biden, che hanno sottolineato tutti i commentatori, è stato che anche ieri sera, a parte queste frasi ad effetto "we don't have to live with it, we are dying for it", in realtà è sembrato un po' titubante. Ha fatto anche un paio di lui è famoso per essere un gaffeur, in realtà in questa campagna elettorale finora di gaffe grosse non ne ha fatte. Quando ha citato i suprematisti bianchi, i famosi Proud Boys, che vuol dire letteralmente ragazzi orgogliosi, ha detto Poor Boys, che è che lui spesso sbaglia le parole. È stato addirittura, si era quasi detto che forse aveva una qualche malattia neurodegenerativa, addirittura l'Alzheimer, i suoi medici hanno sempre negato, però che insomma ogni tanto sbagli le parole. Questo è successo anche ieri sera, sicuramente tanta emozione. Poi c'è stato il momento in cui Biden ha guardato l'orologio, e questa è una cosa che ha fatto molto effetto, perché sembrava come, oddio, quando finisce questa cosa non ce la faccio più. Senti Giulia, voglio riportarti questo messaggio di questo ascoltatore che dice questa cosa qua, voglio sentire il tuo pensiero. Che hai visto il faccia a faccia, un candidato che parla di morte, però è un candidato che ha già perso. Parlavi di una titubanza di Biden in quella risposta. Beh, però cosa ne pensi? Purtroppo i dati sono quelli, cioè negli Stati Uniti siamo oltre i 225.000 morti, Fauci continua a dire, tutti gli epidemiologi, che la terza ondata sta per arrivare. Non parlare di morte purtroppo vuol dire un po' negare la realtà, e quindi io credo che abbia fatto bene a dirlo. Tra l'altro, su questo tema segnalo, e lo ricorda il Wall Street Journal, il giorno prima del dibattito 60 sì. Minutes, che è la più famosa trasmissione di approfondimento della CBS, se qualcuno ha visto il film The Insider di Michael Mann, Al Pacino impersonava il produttore di quella trasmissione, molto prestigiosa, assolutamente sopra le parti. Joe Biden lì ha fatto alcune dichiarazioni sia sul Covid sia sulla intenzione che ha di aprire una sorta di think tank per cambiare un po' le nomine dei giudici della Corte Suprema. A proposito, lunedì Amy Barrett dovrebbe essere definitivamente confermata, questo lo scrive USA Today oggi, e invece Donald Trump, a cui è stata data la stessa possibilità, alla fine dell'intervista semplicemente ha detto adesso basta così, basta così, perché queste domande non mi piacciono. È questo filmato non ufficiale è uscito, e ancora una volta è sembrato insomma che Donald Trump, di fronte a domande troppo incalzanti o che comunque non gli piacciono, preferisce tagliar corto anche con l'intervistatore, anche se si tratta di un'intervista di un canale di prestigio come CBS. Hai preparato ancora un audio da farci ascoltare? Sì, dicevo, questo fact checker, questo Daniel Dale, è diventato il mio mito. Lui passa tutti i dibattiti di ogni tipo, ma anche quelli per l'elezione dei governatori o dei senatori, a controllare che quello che è stato detto abbia o no un senso di verità. E naturalmente ne aveva anche per Biden, sentiamolo. Now I will add that Biden was far from perfect. He had some false claims, he had some misleading claims, and some claims lacking in context. So he shouldn't be absolved for any of that. But again, it's just, you know, apples and oranges. No comparison in the frequency and generally in the magnitude of the false claims from these two candidates. Dice, non si può fare un confronto tra la quantità e la gravità delle falsità che dicono i due candidati, però anche Biden ha detto delle imprecisioni. Naturalmente ha poi spiegato sia sulla questione del fracking, sia sulla questione del piano per l'ambiente in generale, sull'idea di quando e come gli Stati Uniti debbano attuare la riconversione completa dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. E ho imparato che noi diciamo non si possono confrontare mele con le pere, invece gli americani dicono apple con oranges, cioè le mele con le arance. Sì. Allora Giulia, diamo uno sguardo anche agli altri paesi, agli altri giornali, agli altri titoli principali sui giornali. Da dove cominciamo? diciamo. Ma se vuoi dal Regno Unito, dove comunque c'è in prima pagina su Financial Times questa notizia di una multa di 3 miliardi di dollari comminata a Goldman Sachs per lo scandalo della branca della Malesia di 1MDB, e per pagare questa multa, e questa è una cosa veramente incredibile per Wall Street, verranno richiesti indietro tutti i bonus pagati ai top manager di Goldman Sachs. Parliamo di bonus di fine anno che possono raggiungere i 10 milioni di dollari tranquillamente. Poi questa notizia è naturalmente anche su Wall Street Journal. Poi nel Regno Unito si parla anche innanzitutto del famoso test and trace, che è quel sistema per testare e poi fare il tracciamento, che non sta funzionando, non hanno un'app all'altezza delle aspettative. E poi vabbè, notizia leggera, che Anna Wintour, 70 anni, storica direttrice di Vogue America, avrebbe un fidanzato, un inglese. E poi nel Regno Unito fa anche molto effetto questa vicenda giudiziaria di Boris Becker. Boris Becker, il grandissimo tennista tedesco, da tempo risiede a Londra, è in bancarotta e si è scoperto che aveva cercato di nascondere tutti i trofei, compresi quelli preziosissimi in argento di Wimbledon, per evitare che fossero confiscati dai commissari di liquidatori. Oggi però qualche giornale ce lo ricorda, il compleanno di un altro grandissimo uomo di sport. In Europa se lo ricorda Le Figaro, lo mette in prima pagina, Le Roi Pelé, che coltiva la sua leggenda, e poi naturalmente tutti i giornali brasiliani, perché Pelé oggi, il grandissimo, compie 80 anni, secondo me non li dimostra, anche se vabbè, su Odia c'è una foto di quando era molto giovane. E invece sulla Tribuna de Bahia c'è una foto di lui con un pallone dorato, non credo proprio di oro massiccio, in mano, che lo coccola, ed è il Pelé di oggi. Insomma, ripeto, mi sembra un'ottima forma, è un uomo per un in forma, ottantenne. Assolutamente. Sì. Va bene, speriamo di non avergli la buffata in qualche modo, perché 80 anni ce li ha. E in Brasile, a proposito di Covid, insomma, non sono messi benissimo. Esatto. Grazie Giulia Crivelli. È tutto per la puntata di oggi, ed è tutto per questa settimana di Effetto Giorno. Noi ci risentiremo naturalmente a partire dal lunedì prossimo. Un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Jacopo De Franchi per questa settimana in redazione. Appuntamento tra poco per l'aggiornamento delle 14 da Alessio Maurizio. Ciao, buon weekend. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.